centrocampo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Sembrava un normale giovedì di mezza estate, anche un po' noioso in realtà, perché Giaccherini al Sunderland non è una di quelle notizie che ti fa saltare sul divano, e nemmeno l'ennesima puntata della telenovela di Robinho al Santos. Insomma, sembrava un giorno un po' così, poi Trigoria, oggi, mezzogiorno e mezzo. Trigoria, ore 12:30, presentazione delle nuove maglie di gioco della Roma, tutti schierati ad ascoltare questo Francesco Totti. Andiamo un po' giù, un po' più giù con la musica. Francesco, quante ne hai indossate? Tantissime, considerando anche il settore giovanile. Tante, questa è l'ultima però. Vabbè, ne hai indossate tante e questa è sempre emozionante. Sarà anche sempre emozionante, però l'avete sentito Francesco Totti, questa è la mia ultima maglia della Roma. Buon pomeriggio a Carlo Laudisa. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Carlo, l'avrà anche detto con un mezzo sorriso, l'interlocutore di sicuro non ha colto il senso forse delle parole di Francesco Totti, però la verità è che quelle sette paroline stanno provocando un terremoto dentro e fuori la Roma. Ebbè, non potrebbe essere diversamente. Se Francesco Totti dà un annuncio del genere, vuol dire che sta per finire un'era. Quindi ricordiamo che lui già un mese fa aveva mandato dei messaggi al presidente Pallotta che, con l'auspicio di rinnovare, perché lui vorrebbe continuare fino a 40 anni. Ora vedremo se questo in effetti è un annuncio o è un ultimo tentativo di smuovere la società. A caldo non so dirvelo, però è evidente che è un passaggio fondamentale per la storia di Francesco Totti con la Roma, e non è solo la storia della Roma ma è la storia del calcio italiano, visto che l'importanza di questo talento. Se io posso fare un paragone, un parallelo, mi è venuto in mente adesso ascoltando Francesco Totti, sai chi mi ricorda? Mi ricorda il video postato da Del Piero: firmerò in bianco l'ultimo contratto della mia carriera alla Juventus, parole che di fatto costrinsero Agnelli a prolungare il contratto per un anno, poi Agnelli si è vendicato 12 mesi più tardi, quando tutti a furor di popolo gli chiedevano di far proseguire ancora l'avventura di Del Piero alla Juventus. Mi ricorda tanto quel messaggio, cioè una presa di posizione che mette la società a spalle al muro. Sì, è esattamente quello, tu l'hai rimarcato meglio, ma era il concetto che stavo esprimendo io. Questo è appunto l'ultimo tentativo di Francesco Totti a smuovere Pallotta. Vedo delle differenze sostanziali però, perché non tanto per la lontananza proprio fisica del presidente della Roma, in un ambiente che è totticentrico. Sarà più difficile per lui usare il pugno duro usato da Agnelli nella Juventus con Del Piero, per cui mi sbaglierò, ma è una partita ancora aperta. Sì, io mi aspetto che alla fine il rinnovo arrivi, del resto è bastato vedere cosa è successo due giorni fa, fischi, insulti per tutti, applausi e cori soltanto per Totti, che ha fatto anche da parafulmine per la società, per i dirigenti, per la proprietà, per Rudy Garcia che inizia un'avventura nel modo più difficile possibile. Sarebbe davvero bizzarro che la Roma rinunciasse a tutto questo all'inizio di una stagione che non dovrà essere fallimentare come le ultime due, ma che si annuncia assolutamente difficile. Io ricordo i contatti per dirci che cosa ne pensate in diretta, se volete telefonare 800 24 00 24 oppure i vostri sms 349 238 6666 oppure potete seguirci anche su Twitter @ tutti convocati. Parliamo di mercato con Carlo Laudisa, poi parleremo dell'Inter perché oggi ci sono state le dichiarazioni di Walter Mazzarri, ma torneremo anche a parlare di doping con Sandro Donati, che non ha bisogno di presentazioni. Oggi i giornali sono pieni delle celebrazioni dell'impresa da record di Chris Froome al Tour de France, e noi cercheremo di capire a che punto è il ciclismo nella lotta al doping. Carlo Laudisa, abbiamo aperto con Totti perché queste parole non possono passare inascoltate. Oggi però mi sembra che il caso di mercato sia Robinho, che ha annunciato che resterà al Milan. Nella notte il Santos si era tirato indietro dalla trattativa. Ho l'impressione che Galliani non festeggi in queste ore. No, non festeggia, perché evidentemente lui da gennaio che sta cercando di capire quanto il Santos sia in grado effettivamente di soddisfare le sue richieste. Io però su questa vicenda un minimo di cautela la terrei ancora. Perché? Perché Robinho ha un contratto in essere con il Milan che pesa 4 milioni di euro. Il Milan ha già detto, ha già fatto sapere al giocatore che vuol rinnovarglielo, proprio per chiudere questa telenovela, ma con un ingaggio notevolmente inferiore. Quindi ora sono curioso di vedere se Robinho accetterà la decurtazione per rimanere a Milano, o se invece magari clamorosamente non si riapra, perché ricordiamo che il mercato in Brasile chiude il 20 luglio, quindi c'è tecnicamente ancora del tempo perché avvengano dei colpi di scena anche su questo fronte. Però a oggi dobbiamo registrare questa battuta d'arresto, che è sicuramente significativa e che ha bloccato l'arrivo di Aic in rosso-nero. Sì, può venire anche il sospetto che quello del Santos sia semplicemente un annuncio per vedere se si riesce a strappare o ancora uno sconticino o soprattutto il pagamento magari dilazionato. Sì, sì, perché sì, è partito sì. Da 10 milioni il Milan. Ho letto su siti brasiliani che siamo arrivati a 6, però il Milan li vorrebbe tutti e subito. Il Santos ritiene inaccettabili anche queste condizioni. Del resto, Carlo, tu mi insegni, Robinho è un giocatore che va in scadenza nel giugno del 2014, dal 1 febbraio sarà libero di firmare per chi vuole a parametro zero. Ho l'impressione che il coltello dalla parte del manico non ce l'abbia il Milan in questa situazione. No, però il Milan ha posto questo assalto al giocatore, quindi se tu rimani rinnovi alle condizioni, diciamo noi. Ecco perché io continuo a vedere quella deadline del 6 luglio, perché un Robinho che accetta una degustazione, che ha già assaporato la possibilità di andare al Santos con uno stipendio più elevato, magari sarà più volenteroso a fare uno sconticino e quindi ad agevolare poi di fatto il passaggio al Santos. Giaccherini che va al Sunderland porta automaticamente Diamanti alla Juventus. Oggi in tanti scrivono che sarà lui l'uomo che sostituirà, non tatticamente perché sono due giocatori diversi, ma che sostituirà Giaccherini nella Juventus. Ma io non vedo una partita a breve termine. Dal punto di vista dei desideri di Conte, vuole sia lui che Zuniga, e qui c'è l'altro incrocio con Isla, perché è evidente che oggi c'è questo appuntamento fra Inter e Juve per fare il passaggio del cileno ai nerazzurri, e quindi magari possono arrivare altre risorse per finanziare questo doppio colpo. Quindi la Juve non vuol fermarsi, Conte è incontentabile da questo punto di vista e fa bene evidentemente. Vedremo quale sarà lo scenario da qui al 2 settembre, non dimentichiamo mai che il mercato chiude il 2 settembre. Sì, in Italia andiamo avanti ancora per un mese e mezzo. E quindi sono affari di lungo corso, secondo me. Sì, si potrà anche risolvere da Ferragosto in poi. Io personalmente ritengo che vendendo Giaccherini a 8 milioni più qualcosina di bonus, la Juventus non abbia fatto un affare né tattico né economico, perché non è una plusvalenza così importante che cambi la vita al bilancio della Juventus. Però evidentemente se si investe prima o poi bisogna anche vendere. Questa è una cessione dolorosa, ma da un certo punto di vista obbligata, lo diceva ieri anche Vittorio Regia, direttore di Tutto Sport. Per chiudere, su Twitter, chiocciola tutti convocati, Ugo scrive: il Santos ha venduto Ganso, Neymar, Felipe Anderson e Rafael e non può permettersi il cartellino ingaggio di Robinho. Però intanto bisogna vedere quanto è incassato, perché ad esempio in Brasile hanno scoperto che per vendere Neymar a 57 milioni alla fine il Santos ha portato a casa poco più di 9 milioni, perché poi in Brasile succede di tutto, fa fondi, procuratori, padri manager, non è detto che abbia poi incassato i soldi sufficienti per fare comunque un investimento importante. Carlo, ma d'accordo, perché noi trascuriamo sempre la rilevantissima azione dei fondi in Sud America, in Brasile come in Argentina, e alla fine questi introiti vanno in gran parte nelle casse degli investitori che monopolizzano evidentemente quei paesi. Sì, la vicenda di Neymar è davvero surreale. Grazie a Carlo Laudisa. Un saluto a tutti. Grazie a Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport, 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta. Ci fermiamo, c'è il traffico. Ripeto, sono partiti 3 giocatori, ne sono arrivati 3. Quindi ad ogni uscita corrisponderà un'entrata. No uscite, no entrate. No, no cos'è? No par, no Martini, no parte. Tutti convocati. Muoversi! Le Marines adesso. Dovete improvvisare, adattarvi e raggiungere lo scopo. 4 minuti, fuori! Dobbiamo essere svelti, silenziosi e micidiali. Dormito bene, signor Jones? Mamma, dimmi che è un incubo, dimmi che è un incubo! Svegliami, mamma, per favore! Siamo noi che dobbiamo sfondare il fronte perché gli altri ci seguano. La resa non è nel nostro credo. Su, ripetetelo. La resa non è nel nostro credo. Se non lo dite più forte, la vostra prossima libera uscita sarà per andare in pensione. La resa non è nel nostro credo. Più forte. La resa non è nel nostro credo. Bisogna credere nel lavoro. Io voglio i primi 15 giorni, doppio allenamento continui. Bisogna lavorare almeno 14-15 giorni in modo intenso, da far sì che appunto anche la sopportazione alla fatica sia massimale. È arrivato il sergente di ferro, è arrivato Walter Mazzarri, oggi le prime vere parole in conferenza stampa da Pinzolo, poi ne sentiremo un estratto. Buon pomeriggio ad Evaristo Beccalossi. Ciao, buongiorno a tutti, mi sono stirato a sentire quello che ha detto Walter. che fatica, li hai visti correre, sudare, ha detto guai a chi va via dal campo un minuto prima della fine dell'allenamento, ai tuoi tempi era così? Si è tornati, sì, io chiaramente negli anni Ottanta con Bersellini era un po' quel tipo di discorso qua, abituarsi alla fatica, scusami un attimo per la voce, però anch'io ho corso un'ora e mezza stamattina e ho perso la voce, e volevo dirti, no, ma serve anche per inquadrare il momento dell'Inter negli ultimi anni di pressione che si correva poco, lui adesso sta puntando molto sulla preparazione, vedere i giocatori che reagiscono in modo positivo e poi cominciare anche a pensare a fare qualche inserimento per migliorare la qualità di questa squadra. Sì, ho l'impressione che ad ogni giro di campo stia cercando Mazzarri di lavorare anche sulla testa dei giocatori dell'Inter. L'autostima, sì. Sull'autostima. L'autostima, sì. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Allora sentiamolo Mazzarri quando oggi gli hanno parlato dell'ipotesi che l'Inter possa pensare di vincere lo scudetto. Qualsiasi cosa che possa far bene all'Inter, ben accetto. È quello che mi ha detto il Presidente, mi ha detto lei stia tranquillo che... addirittura mi ringrazia perché non gli chiedo mai niente, parlo di tutt'altre cose quando sento il Presidente, perché ho grande fiducia in lui, so cosa mi ha detto quando mi ha chiamato, mi fido della parola del Presidente, punto. Questo era sulla trattativa Toir Mazzarri, invece sentiamolo sullo scudetto. La griglia di partenza, lo dicevo anche quando ero a Napoli, è facile valutarla, ci sono dei parametri ben precisi, perché anche il calcio si può valutare se si sta attenti a certi, al mercato, agli ingaggi, alle potenzialità della squadra che per esempio ha finito quest'anno, quanti rinforzi possono essere arrivati, queste sono valutazioni che ve lascio fare a voi. Io ho il dovere di inculcare ai giocatori la mentalità di dire ogni partita si può vincere, affrontiamo tutti con la possibilità di vincere. Oh, ha detto anche non racconto palle, mi conoscete, è inutile parlare di scudetto, il primo obiettivo sarà dare un'anima a questa squadra. Credo sia davvero inutile, Evaristo, parlare di scudetto all'Inter quando si parte da un nono posto. Viene di conseguenza, io credo che quando vai a far parte di una grande squadra, quella parola lì, anche se non la nomini, a volte su di te la devi sempre dire. Poi lui sa però che deve fare dei gradini. I gradini sono che negli ultimi 2 anni probabilmente lui ha visto che questa squadra a livello fisico non ha dato quello che ci si aspettava. Si c'è da capire chi probabilmente non ne ha più, chi invece deve dare di più e magari lottare, e da lì costruire un'identità a questa squadra che secondo me gli permetterà di andare a battagliare contro chiunque. Hai una vaga somiglianza con la voce dell'avvocato Prisco. Sì, è un onore, però l'ora e mezzo di cosa che questo mattino mi ha stroccato. Ti stai preparando per la stagione. Ha detto ancora Mazzarri oggi che numericamente la rosa è quasi a posto, manca forse un esterno, abbiamo sentito prima Carlo Laudisa, quell'esterno dovrebbe essere Isla. Secondo me Mazzarri non racconta palle, però qui ha detto una piccola bugia. Io lo voglio vedere a fine agosto se in tutto quello che manca del mercato dell'Inter alla fine arriverà soltanto un esterno. Lui sa che deve valutare, perché poi il presidente ci ha abituato che i regali li sa fare e li vuole fare. Se andremo bene in un certo modo, la squadra con un innesto, secondo me, va avanti così, perché ti ripeto, Mazzarri ha le idee chiare. Però qualora ci fosse necessità, che la società si tiri indietro per dare un ulteriore colpo, per fargli male appunto la roba. Sì, c'è qualche problemino di linea. Allora proviamo a ripristinare meglio la linea con Evaristo Beccalossi. Intanto 800 24 00 24, c'è Fabrizio da Firenze. Buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Prego, buongiorno. Fabrizio. Appassionato della Fiorentina. Quindi contento perché Robinho, che non se ne va dal Milan, e se resterà così la situazione fino al 20 luglio, potrebbe tenere gli Aici alla Fiorentina. Appunto, io volevo appunto domandarti un po' cosa ne pensavi di questa cosa qui, di Aic che va via, quando poi, insomma, dopo tanti anni che era a Firenze, che insomma ha fatto parecchia fatica a entrare nel gioco, proprio ora che invece, insomma, si inizia a vedere qualche cosa, lo mandano via. Volevo chiederti un po' cosa ne pensavi. Io penso che la Fiorentina farà fino all'ultimo il tentativo di rinnovarlo, gli Aic, per non perderlo. È stato fatto probabilmente un errore di valutazione un anno fa, quando però gli Aic usciva da una stagione difficilissima, chiusa da quell'episodio con Delio Rossi. Allora andava proposto il rinnovo al giocatore, non è stato fatto. Poi gli Aic è cresciuto, è esploso, è un giocatore perfetto per la Fiorentina di Montella e anche per il progetto della società. E io credo che se si aprirà la possibilità, con un'impossibilità momentanea del Milan, di andare a prendere il giocatore, la Fiorentina sarà ben lieta e farà benissimo a tenersi gli Aic. Abbiamo recuperato Evaristo Beccalossi. Eccoci Evaristo. Ho sentito Mazzarri spingere molto sulla questione delle motivazioni. È vero che piano piano l'Inter sta cambiando pelle, sta cambiando facce e nomi in spogliatoio. Evidentemente però il peso di quelli vecchi, dei senatori, è ancora importante, quindi da lì bisogna ripartire. D'accordo, sì, perché è il caso della corsa dell'identità, dell'anima, che l'hai, se gli interpreti danno tutto. Secondo me in questa fase lui non guarderà in faccia nessuno, guarderà la prestazione, valuterà chi riesce veramente a star bene, a dare tutto, e da lì partirà per costruire un'intera competitiva. Sì, e certamente alcuni uomini, quelli che sono rimasti, possono essere importanti a prescindere dall'età. Oggi Mazzarri ha parlato anche di Kivu che potrebbe restare se risolve i suoi problemi fisici. Grazie ad Evaristo Beccalossi. Ciao, grazie a voi, buon pomeriggio, scusate ancora la voce. Figurati, allenati perché le prime amichevoli sono fra un paio di settimane. Grazie a Beccalossi. 800 24 00 24, Fernando da Frosinone. Sì, buon pomeriggio. Prego. Sono un tifoso del Milan e chiamavo in merito al mercato che sta facendo, insomma, la squadra. Ormai da anni siamo costretti un po' a soffrire, no? Ma io continuo a non capire questa voglia, questa necessità, non so bene cosa sia, di tenere strette queste squadre, no? Però poi dopo lamentandosi, no, dei bilanci. Allora Berlusconi, già l'ho detto altre volte, non glielo ordina mica il medico di tenersi la squadra. Se proprio dobbiamo andare avanti in questo modo, ma perché, insomma, il Milan ancora come brand è molto, ha un suo appeal a livello mondiale, mettesse sul mercato la squadra e finisce sta coniglia, perché non è possibile, insomma, no? Cioè, assistiamo alla Juve che fa queste campagne acquiste e noi andiamo avanti con Poli e Saponara, con tutto rispetto, insomma, voglio dire. Sì, ma il Milan sul mercato c'è stato, Fernando, c'è stato un anno fa, più o meno in questi giorni, si ricorda, si parlava dell'ingresso degli emiri, c'erano discorsi legati anche al mondo delle televisioni che si allargavano alla stessa Fininvest, a Mediaset e non solo al Milan, poi non se n'è fatto nulla. Ha detto Berlusconi il giorno del raduno: il Milan è una questione di cuore, ed è certamente vero. Probabilmente è anche la questione che non è semplice fare operazioni da centinaia di milioni di euro. Guardi le difficoltà che sta incontrando Moratti in questo momento per chiudere con Tohir, e anche i tanti dubbi che si porta dietro sulla volontà di cedere la maggioranza del club. Però non dimentichiamo ad esempio le difficoltà di chi dagli Stati Uniti si è mosso per prendere la Roma, perché poi il calcio è difficile come materia e va trattata da persone competenti, competenti come Benitez ad esempio. La squadra ha grande motivazione, il gruppo che salirà a Di Maro sarà carico, deciso a dare subito, non il solito 100%, ma molto di più. Un gruppo che si rinforzerà a mano con nuovi innesti. Come sono carico io e il mio staff, tutti insieme non vediamo l'ora di indossare maglie e scarpette per sostenere il primo allenamento, i primi scatti, le prime partitelle, il primo gol. Il Napoli c'è e voi con noi. Forza Napoli! Napoli che ha un passo da Giulio Cesar e ha rilanciato l'offerta per Leandro Damião. Gianni da Verona ha scritto al 349-238-6666: anche se all'Inter fanno 4 allenamenti al giorno con questi giocatori non si va da nessuna parte. Secondo me non è vero, perché la condizione fisica fa molto. Mazzarri costruirà un Inter di corsa e che avrà soltanto campionato e Coppa Italia, e quindi certamente avrà giovamento da questo. E poi Patrick che chiede se per caso non è stato Giaccherini a voler andare via per giocare con continuità nell'anno del mondiale. Sicuramente Giaccherini vuole giocare di più, sicuramente vuole guadagnare di più, perché aveva uno stipendio da meno di 1 milione di euro ed è un giocatore che negli ultimi mesi ha comunque fatto il salto di qualità. Secondo me il mondiale rischia di perderlo ad andare al Sunderland, mentre avrebbe avuto la certezza restando in Italia. E poi ancora, sono tifoso del Napoli, quando ascolto Totti dire queste cose penso che non ci siano più nemmeno le ultime bandiere, e mi viene un po' di malinconia. Nico, io penso che sia un messaggio alla Roma, penso che Totti voglia chiudere la carriera alla Roma, ma non sia pronto a farlo tra 12 mesi. E sinceramente è difficile dargli torto, vista anche l'ultima stagione che ha fatto. Tutti convocati. Sono molti tifosi della Fiorentina che sperano che con la permanenza di Robinho al Milan Ljajic possa rinnovare con la Fiorentina. Poi scrive Stefano da Ferrara al 349-238-6666: contentissimo per l'acquisto di Gomez, ma il secondo il vero colpo secondo me è Joaquin, che è un ottimo giocatore, ma credo non faccia parte almeno nel progetto degli 11 titolari. E poi Luca da Firenze: secondo me Jovetic e Ljajic sono invece destinati entrambi a partire proprio per riprendere i soldi di Gomez. Io credo che se la Fiorentina dovesse riuscire a piazzare Jovetic ai 30 milioni che chiede o anche poco meno, i soldi per Gomez ci sono già. E poi un amico scrive: De Laurentiis, con la scusa del fair play finanziario, non farà grandi acquisti, Dzeko non arriverà mai. Penso che Dzeko non arriverà mai, perché il Manchester City lo tratterrà, e quindi è un giocatore che anche dopo la partenza di Tevez non è più sul mercato. Penso invece che De Laurentiis gli acquisti li farà e reinvesterà gran parte di quei 63 milioni per costruire una squadra da scudetto. E poi c'è la domanda invece sulle possibili penalizzazioni della Lazio. Ne abbiamo parlato ieri con l'avvocato Mattia Grassani. Lazio che rischia non meno di 4 punti di penalizzazione, ma potrebbero anche essere 5. la responsabilità oggettiva è per entrambe le partite. Nel caso della Lazio il tariffario dice 2 punti per partita, poi ovviamente c'è un processo che dovrà accertare l'eventuale esistenza di queste due combine. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Cominciamo da Biella. Andrea. Pronto? Prego, dica. Sì, Carlo, buongiorno. Sì, Carlo Genta torna lunedì, così ne approfittiamo per... chiedo scusa. No, si figuri, per dirlo a tutti, Carlo Genta torna lunedì ai comandi di tutti i convocati. Ero collegato in macchina e ho sentito un intervento di un tifoso milanista e poi concordo con lei con il discorso della Fiorentina. Gioacchini è un grande giocatore, forse viene segnalato di meno rispetto ad altri affari, ma probabilmente... si rivelerà migliore di altre soluzioni in questo discorso. Volevo parlare un attimino di quello che riguarda il discorso del tifoso milanista che prima è intervenuto sull'eventuale cessione del Milan, Berlusconi, sì, e quant'altro. Il vero problema che non, forse nessuno ha ancora segnalato è che probabilmente il fatto che Moratti sia abbastanza restio sulla valutazione del vendere o non vendere la società legata a quote di partecipazione di maggioranza o minoranza è sostanzialmente o probabilmente la valutazione che si fa di questa quota di maggioranza, perché probabilmente l'Inter vale in questo momento probabilmente come brand molto di più di quello che in questo momento sono le cifre che girano. Stessa cosa si può dire del Milan, la valutazione che si fa in questo momento sarebbe probabilmente lontana dall'interesse di probabilmente società che vogliono intervenire, né il caso particolare il fatto che qualcuno, forse tutti, dimenticano il problema della fiscalità in Italia, che è un problema abbastanza serio ed è un problema che limita l'investimento. In effetti il vero colpo particolare è quello della proprietà del Paris Saint-Germain, essendo in Francia una fiscalità molto vicina a quella italiana, mentre in altri paesi, come sappiamo bene... Sì, ci sono trattamenti differenti, ovviamente. Vale anche caso, ad esempio per il Monaco, lì però siamo all'eccesso e comunque entro un paio di anni il Monaco dovrà adeguarsi alla fiscalità di tutto però il resto del campionato francese. Infatti, come lei sa e come sono le voci, tutti dicono in questo momento che l'intervento del Monaco avvenuto adesso è avvenuto, guarda caso, in un momento ancora molto particolare. Per cui lì c'è veramente l'incognita del fatto di dire come l'intervento è stato fatto prima su una fiscalità molto diversa e è stato fatto adesso, però si dovranno poi uniformare, oltretutto perché addirittura giocano nello stesso campionato. Esatto, nel campionato francese. Secondo me, Andrea, prima o poi questo discorso andrà affrontato anche dall'UEFA per chiudere anche il discorso sul fair play finanziario, perché non è soltanto il problema della fiscalità del principale Patto di Monaco, basti pensare ad esempio che le quote versate dai soci del Barcellona in Spagna possono essere scritte a bilancio come ricavi e ad esempio i soldi che Moratti e Berlusconi versano per invece coprire il bilancio di Inter e Milan hanno una voce che per l'UEFA non è più utilizzabile e fuori dai parametri del fair play finanziario. Anche questo ad esempio è una disparità di trattamento dal punto di vista legislativo e fiscale che crea una disparità anche a livello competitivo. Alfredo da Bergamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Prego. Volevo parlare a proposito della preparazione atletica. Sì. Mi pare che non sia una questione di fare 4 allenamenti al giorno, di lavorare 15 giorni durante la preparazione e poi trascurare tutto il resto della stagione. Io sono stato un preparatore atletico dell'Inter, della Nazionale e via di seguito, mi chiamo Alfredo Caligaris, qualcuno mi conosce, e mi pare che ci sia troppa superficialità, manca ancora cultura, manca ancora preparazione, diciamo così, scientifica sulla preparazione. Il calcio non è uno sport, è un gioco, il ciclismo è uno sport e non è un gioco, quindi ci sono differenze sostanziali nella preparazione che va diluita nel tempo e va soprattutto riferita a quelle che sono le potenzialità effettive di chi si sta trattando, questo volevo dire. Io Alfredo sì? Le faccio solo due annotazioni. La prima è che secondo me il calcio è uno sport, il problema è che è uno sport di squadra praticato da atleti singoli e quindi la preparazione fatta di gruppo secondo me ha poco senso e si dovrebbe cominciare sempre più a ragionare sulla sviluppo della potenzialità del singolo atleta, perché ognuno è diverso dall'altro. L'altra valutazione è che purtroppo il tempo per allenarsi non esiste più e non è soltanto una questione del moltiplicarsi delle partite ufficiali. Basti pensare ad esempio a che cosa farà il Barcellona nel mese di luglio e agosto. Girerà la terra praticamente due volte per andare a raccogliere soldi ovunque e gli allenamenti saranno un dettaglio tra un aereo e l'altro, anche in un momento che dovrebbe essere proprio quello della preparazione fisica. Fino a quando i club, secondo me, non risolveranno questo grande paradosso, sarà difficile parlare di preparazione fisica e atletica in maniera seria e approfondita anche nel calcio. Grazie comunque, così come ringrazio l'amico da Bergamo, ha parlato di ciclismo, ringrazio una persona che il ciclismo la conosce bene da dentro, Sandro Donati, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Sandro Donati che è, non c'è bisogno di presentarlo, è consulente della WADA, è una delle voci che da tempo si sta battendo di più nella lotta al doping, è tuttora in libreria con un libro, Lo sport del doping, che ha fatto e sta facendo molto discutere, in cui si parla di cosa è stato lo sport italiano nell'intreccio con il doping negli ultimi 20 anni. Sandro Donati, che noi abbiamo parlato per provare a parlare di ciclismo e non per demonizzare il ciclismo, ma perché insomma una settimana fa la cronosquadre a quasi 58 km all'ora di media al Tour de France e Sandro Donati aveva detto sono dati che mi preoccupano. Oggi i giornali sono pieni delle celebrazioni di Chris Froome per la sua crono di ieri a 54 km di media, sua e di Martin, che l'ha vinta e non accadeva da 10 anni. Io non so, Donati, se si può parlare di un'equazione velocità record uguale doping o se davvero sta cambiando qualcosa, però una riflessione credo sia utile farla, o no? Ma perlomeno provare a ragionare sulla base delle informazioni disponibili. Ecco, per esempio, raffrontando questo 54 km all'ora fatto individualmente da Fromm e da Martin, perché gli altri erano piuttosto staccati, mi pare che abbiano preso un minuto e qualcosa. Sì, direi loro due hanno viaggiato come non succedeva dal 2003 con Miller, Miller che ha però poi confessato negli anni successivi che in quel 2003 faceva uso di EPO. Per questo a me vengono i brividi quando leggo di queste prestazioni. Ma guarda, io dico che intanto questo 54 e qualcosa è proporzionato a 58 e qualcosa a squadre, anzi addirittura migliore. Quindi anche quelle giustificazioni che alcuni esperti di ciclismo hanno addotto dicendo ma perché si critica, lì c'erano le condizioni ideali di vento, di percorso, quindi 58 all'ora si poteva fare, qui adesso siamo a 54 individualmente, che direi che è una conferma che quel 58 non era affatto casuale, ma derivava proprio da una capacità di prestazione straordinariamente elevata. Io, se si ricorda, facevo delle obiezioni sul fatto che intere squadre, interi gruppi raggiungessero delle performance molto alte in occasione di un giro, di un tour, no? Era successo con i gregari di Indurain, poi sistematicamente con i gregari di Armstrong, ora è successo in parte con i gregari di Froome che cominciano anche ad accusare però un po' di fatica. Ecco, queste performance di gruppo, queste non sono logiche. Sì, hanno una spiegazione che certamente c'è, perché noi non stiamo dicendo che è frutto del doping, non ne abbiamo le prove, però evidentemente qualche dubbio può venire e comunque qualche campanello d'allarme. Questo secondo me è il discorso che va fatto, è legittimo che suoni. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. C'è già Nicola dalla provincia di Venezia. Prima però Sandro Donati, io ho letto un'interessante riflessione che lei faceva, e che era questa sostanzialmente: certamente non sono migliorate in maniera così sensibile le metodologie di allenamento, lo stesso vale per i materiali che oramai sono al top, e quindi se vogliamo spiegare in maniera scientifica certe prestazioni non resta che farsi venire qualche dubbio, fare qualche domanda scomoda. Che cosa vuol dire? Voglio dire che i ciclisti professionisti non hanno tempo per sviluppare dei periodi di allenamento molto lunghi che veramente determinino un salto di qualità, e poi a carriera avanzata non è che il piano di allenamento possa determinare chissà quali cambiamenti. Quindi è chiaro che in una situazione nella quale si gareggia molto e ci si allena soltanto come collegamento, tra gare, una gara e l'altra, cercare le spiegazioni in allenamento mi pare che non abbia un senso. E purtroppo la storia del ciclismo è quella che è. Ecco, ad esempio, facevamo le considerazioni sulle velocità molto elevate che ci fanno tornare indietro di anni, ma vogliamo parlare anche del fatto che improvvisamente gli inglesi cominciano a dominare le corse a tappe. Questo vale per qualsiasi specialità sportiva, non è che si inventa una supremazia. La supremazia è il frutto di una storia, di una tradizione, di un ambiente che cresce negli anni. Direi che ci sono molti elementi. Lo stesso Fromm mi pare che prima del 2011 non si fosse mai piazzato significativamente in grosse corse a tappe. Sì, Fromm addirittura allora, 3 anni fa, oggi lo ricordano i giornali, era stato espulso dal Giro d'Italia perché trainato da una macchina, trainato dall'ammiraglia, perché non riusciva a tenere il passo del gruppo. Anche queste crescite, queste carriere, effettivamente qualche dubbio, qualche sospetto, non è solo il caso di Chris Fromm, lo lasciano? Ma guardi, la crescita di un atleta è graduale, non c'è niente da fare, e quindi non ci sono cambiamenti improvvisi, così come Armstrong, che si trasformò da passista di una gara di un giorno in grande corridore a tappe. La cosa non aveva alcun senso. Io direi che quella lezione di Armstrong non la possiamo dimenticare improvvisamente, non possiamo ricominciare sempre con lo stesso ritornello, ma abbiamo voltato pagina. Io ammetto che nel ciclismo ci siano delle volontà di cambiamento, e secondo me anche molti giovani che proprio desiderano ardentemente di potersi liberare dalla schiavitù dei farmaci, però se poi improvvisamente le performance di vertice vengono monopolizzate a livelli tecnici elevatissimi, i dubbi vengono a tutti, mica vengono soltanto a noi che stiamo commentando, vengono in primis ai corridori, poi magari nelle dichiarazioni ufficiali loro e sui veri del ciclismo diranno l'inverso, diranno che no, sono infami, sono sospetti senza senso, ma loro per primi avranno dei dubbi. Questa è la realtà. Allora, Nicola dalla provincia di Venezia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Intanto una cosa volevo dirvi: siccome fra qualche settimana viene giù a Jesolo Del Piero, magari parliamo anche un po' di calcio, avrei voglia di chiedergli come va con il doping nel calcio. Sì, però però su quello c'è stato un processo, ci sono delle ombre che evidentemente non sono state chiarite, però vede, la stessa serietà con cui ne stiamo parlando con Sandro Donati mi impone di dire che l'argomento va trattato non per titoli di giornale, e quindi ad esempio del doping sul calcio io penso che anche la riforma che ha varato l'UEFA in queste settimane non sia assolutamente sufficiente, e che però attaccare l'etichetta così degli atleti, a dei giocatori, sia altrettanto poco giusto. Prego Nicola, però la faccio proseguire. Assolutamente sì, parlo e volevo intervenire come ex ciclista. Dica. Io a 16 anni ho vinto una cronometro squadra, il campionato italiano, a 16 anni, a 47.800 di media, e il doping assolutamente non sapevano neanche come si scrivesse, non che cosa fosse. Voglio dire che se c'è un allenamento, ci sono delle potenzialità e una dedizione ovviamente psicofisica, si possono raggiungere risultati che sembrano impossibili. Mi piacerebbe che faceste anche qualche altro riferimento, non solo a questi ciclisti che sembrano tutti quanti dopati e drogati, portando anche degli esempi positivi del ciclismo. arrivare a fare 50 di media a 16 anni, che non sei ancora uomo perché sei ancora un ragazzino adolescente, però allenato, vuol dire portare un grossissimo risultato. Aggiungo che era una crono squadre dove siamo partiti in 4, siamo arrivati in 3. Certo. Questo vale per me come esperienza diretta, positiva, personale, ma vale per N altri, quindi sarebbe anche bello per non colpire sempre il ciclismo, nonostante gli N Armstrong che purtroppo segnano questo dato negativo, dare anche qualche risposta positiva, perché il vivaio di ragazzini è veramente immenso in tanti sport come nel ciclismo, e quindi parlare forse un po' troppo di doping e di porcheria del doping forse va a snaturare e a screditare. Sì, ma noi, ragazzini, Nicola, non vogliamo criminalizzare il ciclismo, lo abbiamo detto nella premessa. Comunque, Sandro Donati, cosa rispondiamo a Nicola? Ma guarda, vi dico che io capisco anche la sincerità di questo intervento, però vorrei far presente che 47 all'ora e in 4, sia pure dopo perdendone uno di compagno, arrivando in 3, comunque in un gruppetto, non è un risultato, diciamo, irraggiungibile. È normale per dei buoni atleti, ma la differenza fra 47 all'ora e 58 è spaventosa, è enorme, perché questo nostro amico sa benissimo, lo saprà meglio di me, che la resistenza dell'aria è funzione geometrica della velocità, per cui poi dopo passare da 47 a 58 è un'impennata di resistenza dell'aria. Ecco, quindi voglio dire che 47 indica solo che erano dei buoni corridori, ben preparati, ma non significa assolutamente che ci sia proporzione con 58. 58 è un'altra cosa. Andrea da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Complimenti a Sandro Donati, perché io, che non sono un tecnico del ciclismo, sto capendo parecchie cose rispetto a quelle che conoscevo. Dica Andrea. Velocissimo. Io sono sinceramente sconcertato da quello che sento sul ciclismo e purtroppo anche su altri sport, e mi domando come ci possano essere ancora degli appassionati a questa disciplina che dimostra ogni volta che evidentemente quei risultati non sono umanamente raggiungibili. Cioè, punto e basta, non c'è molto altro da dire. Cioè, mi spiace per gli appassionati o per chi si dedica a livello dilettantistico a questa attività, però è un dato di fatto, signori, cioè non c'è molto altro da dire, punto e basta, rassegniamoci a questa idea. Grazie Andrea. Essendo uno sport di estrema fatica, è evidente che è lo sport più esposto anche all'influsso del doping. Sandro Donati, c'è una nuova generazione, abbiamo giusto un minuto e siamo in chiusura, c'è però l'impressione, lei lo ha detto anche in altre occasioni, che non ci sia stata una rottura completa con il passato. No, l'ambiente del ciclismo è molto tradizionale, purtroppo non c'è un grande rinnovamento, questo è un dato di fatto, però bisogna dire che analogamente al ciclismo è giusto anche l'intervento dell'ascoltatore che diceva parliamo di altri sport. Parliamo di altri, parliamo del calcio ad esempio, che sì, controllerà, sì, ma solo calcio, chi ma ha avuto dei precedenti. In tutta evidenza i risultati dei controlli antidoping del calcio non sono credibili. Lo dimostra la storia italiana, perché fino al 98 non c'erano casi di anabolizzanti, improvvisamente ci fu lo scandalo del laboratorio di Roma che faceva delle analisi parziali, rinnovato. Nato tra l'altro dalla denuncia di Zeman, tutti ricordano i muscoli di Vialli, di Del Piero, sì. In realtà quella denuncia di Zeman portò a questo, sì, che è certamente, ecco, un risultato positivo. Sì, e vorrei ricordare che io dissi al pubblico ministero Guariniello di andare a controllare i referti le analisi dei calciatori, perché non avrebbero trovato analisi sugli anabolizzanti. Dopo quello scandalo emersero 11 positività, dopodiché sono scomparse di nuovo. Ecco, queste magie, il doping non c'è, poi di botto c'è e poi all'improvviso non c'è, queste sono cose che qualsiasi tecnico capisce che non sono credibili. Quindi è il sistema che si difende, non solo il ciclismo, tutti gli sport, molte federazioni internazionali, tutta la storia dei controlli a sorpresa delle federazioni internazionali fa ridere, consentono addirittura due assenze, quindi due rifiuti praticamente. Sì, ci sono anche grandi interessi in ballo e che quindi evidentemente rendono tutto più difficile. Purtroppo siamo in chiusura, Sandro Donati, io la ringrazio e la saluto. Grazie per essere intervenuto. Arrivederci, arrivederci. Grazie a Sandro Donati, grazie a voi che ci avete seguito. Un ringraziamento anche a Carmelo Lauricella in regia, a Franco Piantanida, autore di questa puntata. Un saluto da Giovanni Capuano. Appuntamento domani a partire dalle ore 14.